per Ghirangir il fantasma dell'arca. Come una mosca sul vetro, poi nascendo de bella sabuedro, e viaggi sui strati, e viaggi tempesta, stremisi d'unet, decade in abbia a tre met, oh, del fantasma dell'arca, oh, va sul del fantasma dell'arca, oh, va sul del fantasma dell'arca, oh, va sul del fantasma dell'arca. Di la guerra, ove di partigian, e quel che ancupa le surazzane, e viaggi nel vento, e secrati una bala, stanotte a dormire, resterò bacio a sala. Oh, del fantasma dell'arca, oh, va su del fantasma dell'arca, oh, va su del fantasma dell'arca, oh, va su del fantasma dell'arca. Mortres en volt e sognamo in pas, e me piascu recadre ai tusanet de tu mas, e per ogni tant me vean calmagon, e caragni un fezzet e gio in riva a culon. Oh, sul del fantasma dell'arca, oh, sul del fantasma dell'arca, oh, sul del fantasma dell'arca, oh, sul del fantasma dell'arca. Cure in adre i carbinieri d'argento, e i veren saran in una casa di legno, e me cure in adre i finanzieri de nubial, e me che disi de me arrumpibal. E me cure una tre, anche i frate piora, i prima France cambia per una guai Madonna. E voi in giro senza parabrezza, metto che cambia l'ac e finisci sopra un'altra.